e riflette un po'. Il Vangelo lo si fa, lo si vive, poi lo si annuncia, lo si racconta. Gesù familiare con i suoi discepoli. Venite, riposate. Questo per dire che la cura dello spirito è anche cura della vita, rispetto dei tempi, rispetto dei bisogni della persona. Fare sosta non è rinuncia o attesa. Avere di sé non significa dimenticare chi ha bisogno. Anche il riposo e la festa possono essere condivisi. Riassumerei in due parole chiave il nostro pensiero stamattina. Soggettività e disponibilità. Soggettività, cioè le giuste esigenze delle persone, i propri bisogni, le aspirazioni, coltivare speranze senza aver paura degli idoli perché si sconfiggono. Come dire, a posto io, a posto tutti. Lasciare che le inopportunità, che a volte disturbano, senza sentirsi in colpa, se non si riesce sempre ad essere utili. Allora vorrei fare queste considerazioni. Vediamo se riesco. Sì. La folla precede e circonda i discepoli e li porta in disparte, solitario, dove sono diritti al popolo, ai popoli della sua presenza. Cosa voleva tutto questo, questa gente? Cosa voleva? Come cercava di a loro? Era solo la sete del regno, dell'ascolto dei loro commenti alla legge, ai profeti? Certamente non era la curiosità di assistere a dotti commenti, anche perché non era ciò che Gesù e i suoi amici e amiche offrivano. Forse veramente c'era qualcosa di nuovo nel panorama un po' normalizzati dei percorsi di fede di allora. Faccio notare, al tempo di Gesù la situazione in Palestina era quanto mai caotica. L'occupazione romana, il governo collaborazionista di Erode, i gruppi religiosi che indicavano strade molto diverse, i sadducei, i grandi sacerdoti, i farisei, quelli che con più scrupolo e amore o amore cercavano di seguire la legge, i profeti. Ancora due o tre note. La folla è lì e Gesù la vede. Notate, vedere la fede, la folla, è il primo atto che compie in questa circostanza. Si accorge della sua presenza e ne prende atto. L'assedio, usiamo questo termine, Gesù non solo si accorge della folla, per essa si commuove. Più precisamente, Gesù ha un moto viscerale. La compassione di Gesù non è lacrimosa, una commozione basta, è una forte passione. Gesù percepisce la mossa, la massa che si accalca come una moltitudine allo sbando. Sono come pecore senza pastore. Chi si interessa a loro? A chi stiamo a cuore? Chi se ne procura ancora o se ne cura? Le folle che seguivano il gruppo di Gesù erano anch'esse senza identità. Politicamente non esisteva più un governo che rispecchiasse l'identità nazionale, religiosa, la classe sacerdotale era spesso compromessa. Dove trovare qualcuno che stabilisce un ponte tra quel Dio del Tempio, velato dal fumo degli incensi e degli olocausti? Il Dio dei profeti, quello di un tempo che aveva smosso il cuore di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. E alla fine, Gesù dunque in questo caso non si mette a guarire i malati e a liberare gli impossessati, piuttosto insegna alla gente molte cose, a differenza dei capi e di ogni risma di grande, di gente per bene. Gesù tratta tutti, sbandati amici, non da subordinati. Insegna e allora compie un gesto alto. È riconoscimento della dignità. Dicevo all'inizio che ci sono queste due parole che vanno tenute presenti, disponibilità e soggettività. A noi dice che qui si gioca la giustizia, si gioca la solidarietà, si gioca l'attenzione alle persone. Mi fermo. Il Signore ci accompagni.